L'alba nasce prima, nebbia fitta si avvicina. Oggi penso a te, così distante, che per poco mi manca il fiato. 6 secondi per capire quanto vale il mio avvenire, 3 per quello che non ho ancora compiuto, 3 per quello che ho perduto. Soltanto 6 secondi bastano e chiudono un'intera vita. Non perdo troppo tempo e penso ad andare avanti, che non è finita. No, non è finita ancora, anzi è appena cominciata, questa vita che espressione è della mia inquietudine. Perché se hai un dolore dentro, sai che in fondo, proprio in fondo, non vorresti mai che andasse via, per sentirti meno solo al mondo. Soltanto 6 secondi bastano e racchiudono un'intera vita. Non perdo troppo tempo e penso ad andare avanti, che non è finita. Notte buia e senza luna, al mio fianco birra chiara. Che altro accadrà? Penso a questa mia età e la mente poi vola e va. E la notte ispira il sogno e ti immagino lontana, con quell'aria da fresca sensualità, tra le strade di una città.